and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. E per una volta comincio io tutto il bla bla bla bla. Perché guarda qua, guarda il maestro Muti cosa dice. Carta canta, infami flautini. Ma a cosa si riferisce infami flautini? Ai flauti usati per insegnare la musica nelle scuole. Tuo vecchio cavallo di battaglia, certo. Compri adesso, flauti. E adesso il cavallo di battaglia anche del maestro Muti. Ma guarda, quindi te. Vuol dire, Drago, che avevo ragione. Bravo io capo, la musica bravo nelle capo scuole è tutta sbagliata. Invece di attrarre gli studenti, li respinge. Ma guarda che è già tanto che la musica esista ancora come materia, visto come vanno le cose in quest'epoca di tagli gelminiani. E questi flautini, tanto odiati da te e dal maestro Muti, costano poco. Sono non gli unici strumenti. Non l'ho neanche portato perché fa schifo. Lo so, però costano poco. E sono gli unici strumenti che riesci a far comprare a tutte, ma a proprio tutte le famiglie degli scolari. Quindi è una scelta obbligata. Non è che puoi sembra fare tanto. Tremonti così. Tremonti. Smettila, mancava come la R Moshe. Quindi come a parte la R Moshe. Drago, il tuo è un discorso che in sintesi cosa dice? Dice la musica non serve a granché, no, non possiamo chiedere sacrifici alle famiglie, quindi flautini da 2 euro o niente. Sì, però ok, la musica serve come? Ma e non come? Sono io il ministro è la bambina Gelmini. Il ministro Ombra è invece il ministro Bambino Tremonti, che taglia tutto, quindi mancano i soldi per le scuole, figurati per gli insegnanti di musica o per gli strumenti. Ma per Bambino Ministro Tremonti, la musica è importante, importante, è una cosa seria. Preferisce forse che i bambini sprechino il loro tempo e la loro creatività dietro cose stupide e dannose come, che ne so, il calcio. Ma cosa cioè, dici? Calcio? Il calcio, lo sport preferito dagli italiani, vai a parlare male del calcio, non penso che ma il calcio rincretinisce ma tutti, no, poi zitto, tutti a non si scommettere, può dire, dai, non si può dire, ci sono padri di famiglia che somatizzano la retrocessione della squadra. Vabbè, ho capito. Altri che perdono tutti i soldi nelle scommesse, appunto, so. Altri che ne so, che regrediscono e si mettono a collezionare le figurine. È vero, è vero. Ministro, dica qualcosa. Io non ho mai capito chi gioca con le figurine Panini. Io ho giocato con le figurine Panini, però non capisco perché un adulto debba continuare a giocare con le figurine Panini. Appunto, invece delle figurine Panini, lezioni di musica. Forse dai, sì, lezioni, dai. Anzi, lezioni di ukulele al posto degli infami flautini. Allora prova a convincere il maestro Muti che i sublimi ukuleli devono prendere il posto degli infami flautini. Sì. Se lo dice lui, sei a sì, posto. Però no? Io sono anni e anni che corteggio i ministri della pubblica istruzione. Prima il buon Fioroni, poi la buona Gelmini. Però niente, nessuno che capisce che, insomma, l'ukulele non è firu firu il flautino. Ho capito, infame. Tu devi corteggiare il maestro Muti, magari con lui funziona, no? Maestro Muti, lei gli strumenti li conosce tutti. Con ognuno di loro ha un rapporto speciale. Ogni singolo strumento le parla un linguaggio segreto che noi umani non possiamo comprendere. Anche l'infame flautino della sua orchestra le parla, ne sono certo. Ma mi chiedo, maestro Muti, ha mai stretto al petto un ukulele? Dici che lo convinco? Ma potrebbe stringere al petto un ukulele. Dai, la tua nuova missione, K, è quella di far sì che il maestro Muti tenga al petto un ukulele. Chiedo asilo! Allora, sul fatto che l'Italia sia un paese a misura di adulti regrediti, siamo tutti d'accordo. Però il fatto che non sia a misura di vero bambino, questo mi stupisce un po'. Cioè, un vero bambino in Italia vive malissimo, lo dice il presidente della SIP. La SIP. La SIP, la Società Italiana di Pediatria. Ah, no, pensavo la SIP dei telefoni. No, ma lì non c'è più dal 1994. Ma tu sei di quell'epoca lì, cioè per te SIP. SIP invece adesso, questa SIP qui di pediatria è viva e vegeta, c'è proprio lavora. E fa la consulenza telefonica. Questo è molto divertente. Vabbè, allora la SIP ha tracciato un quadro tragico delle condizioni di vita dei bambini italiani. Io non so nemmeno da dove cominciare, guarda, c'è una lista di lagnanze. Facciamo così. Si salta. No. Allora, dai, guarda che veramente c'è una lamentela continua da parte della SIP. Ecco. E anche loro si lamentano degli infami flautini. No, vabbè. Anche loro, forse andando a vedere proprio nei meandri di questa ricerca, si troverà anche qualcosa sugli infami flautini. Però in realtà si lamentano perché l'Italia è un paese con pochi posti negli asili nido, e questo si sa. Un paese in cui se vai al ristorante e chiedi un seggiolone per piazzarci il bambino, ti guardano con due occhi così. E un paese dove gli spazi dedicati, che ne so, all'allattamento nei centri commerciali non si sono mai visti, mentre all'estero, c'è tutta una madre. Fai degli esempi che dimostrano che l'Italia non è un paese per genitori, mica per bambini. Sono loro che c'hanno tutte le menate. Dove lo metti? Dove lo cambi il bambino? Non lo fai il bambino. Sono i bambini piccoli. Vabbè, parliamo delle menate proprio dei bambini un po' più grandi, quindi, no? Ad esempio, tutti da piccoli abbiamo avuto la bicicletta. Adesso se abiti in una città grande, cosa te ne fai della bicicletta? Monti sopra, pedali e vai. Vabbè, ma non bicicletta? Ci sono le piste ciclabili. A meno che non ti si spacchi sotto il sedere, caschi, ti rompi tutto. Cosa si è rotto? Il malleolo. Melo Lauricella, salutiamolo. Salutiamolo, vabbè, però insomma non ci sono le piste ciclabili, le biciclette possono rompersi, lo smog che respiri doveva finire. Insomma, la bicicletta è sempre meno usata, quindi i bambini non fanno movimento, diventano sedentari e si impigriscono davanti alla TV che trasmette i film col bollino rosso. Mamma, il 70% dei bambini va a scuola in macchina con uno dei genitori. Una volta andavamo a piedi o in bici, no? Prendi una bici, ci monti sopra, pedali, vai anche a scuola, volendo. Vabbè, vai a scuola, no? Ho capito, però la SIP invoca un'Italia baby friendly, capito? Baby friendly, senza spot televisivi che pubblicizzano merendine industriali piene di zuccheri e grassi. Vabbè, e quelle robe lì. Scusa, noi passiamo solo pubblicità di alimenti sani, tipo il Wunderwaffer. Il Wunderwaffer non contiene né zuccheri né grassi, approvato dalla SIP, col gettone. Wunderwaffer nella merenda, oggi c'è una sorpresa nuova. Wunderwaffer. Occhio ragazzi, perché Wunderwaffer è l'ostia sottilissima che ti dice hai vinto, hai vinto. Mastica piano e non mandare giù, c'è una sorpresa nuova. Sì, è una buona merendina. A Milano il vento sarà cambiato, ma i milanesi restano sempre uguali. Cosa c'è? Adesso cosa vuoi con i milanesi? Sono sempre lì i milanesi che protestano, si lamentano per il troppo rumore. Che si tratti dei concerti a San Siro, che si tratti dei locali della Movida, o addirittura Movida di un oratorio. La Movida è a Madrid, milanese, ma cos'è oratorio? Ma cosa stai l'oratorio, ma che oratorio? Giuro, lo chiedi, dico... chiedilo a Don Claudio. A chi? Don Claudio, il parroco che gestisce questo oratorio della parrocchia di Santa Maria al Paradiso a Porta Vigentina a Milano. Lui potrà risponderti agevolmente. Il suo oratorio è stato segnalato alle forze dell'ordine dai residenti della via per eccesso di rumore ed è stato chiuso la scorsa settimana dal comune, quindi un oratorio. In effetti a ben pensarci. Ma cosa? Scusa, ad esempio il biliardino. Il biliardino o calcio balilla, insomma. Fa un rumore pazzesco. Poi se rulli fa un rumore assurdo. Capito. Magari in quell'oratorio ce ne sono tre o quattro di biliardini. Ti credo che poi i vicini di casa fanno l'esposto. Sì, ma perché clanca. Allora, ho capito, ma se uno per caso ha un vero centro sociale vicino a casa, con i concerti punk fino alle 3 di notte. Vabbè. Cosa fa? Ma cosa c'è? Poi guarda che l'oratorio è il padre di tutti i centri sociali. Cosa dici? Quindi se vuoi estirpare il male, meglio cominciare alla radice, via gli oratori. Ma sì, ma guarda che il vento sta cambiando e magari il comune rivedrà la sua decisione e riaprirà questo oratorio di Santa Maria al Paradiso, che adesso è chiuso e quindi la povera Santa Maria, più che al Paradiso, sta in una sorta di purgatorio o di limbo, no? No, il limbo è stato soppresso. Non c'è più. In che senso? Come in che senso? Il limbo, che abbiamo imparato ad essere il luogo in cui erano parcheggiate le anime, no? Dei pre-cristiani buoni o dei bambini morti senza essere battezzati. Limbo, sì. È stato ufficialmente soppresso il 20 aprile del 2007 da Papa Benedetto. E quindi? Cioè, che fine hanno fatto tutte quelle anime? Sparite per decreto, non esistono più. Erano lì in pena, si agitavano. Fatto una specie di condono tombale. E mai come in questo caso il termine tombale, drago, ha senso, trattandosi di anime. Forse sì. Attualmente i bambini che sono morti senza battesimo sono affidati alla misericordia di Dio che vuole salvi tutti gli uomini. Cosa vuol dire? Vuol dire che in pratica vanno automaticamente in paradiso. E senza passare dal via. Non c'è più il limbo, no. Ma c'è la misericordia di Dio che vuole salvi tutti gli uomini. Non c'è più il limbo, ma. E quindi in pratica andiamo tutti quanti automaticamente in paradiso. Tranne Drago. Tranne quelli che hanno fatto dei peccati. Perché in realtà il limbo non è che comprendeva noi. Comprendeva quelli basso, che non erano basso. Ancora stati. Il limbo bisogna ancora passare stati sotto battezzati ed erano già morti. Più basso, capito? Più basso. Drago, chiedo più basso. Asilo, è tradio24.it. Aiuto! Più basso! Ma no! Cado! È morto.